Bottone, grazie. Grazie. Grazie della parola. Diventa un po' complicato il discorso, perché uno è venuto in un certo modo nel corso delle ore, pensa a certe cose, segue con molto interesse quello che ha fatto l'uno, quello che ha fatto un altro, quello che ha fatto il Partito Radicale, così. E uno pensa, dice, ma che cosa ho fatto io? E mi erano venuti dei pensieri, certo, considerando sempre la difficoltà di esporre questa ricerca, che è abbastanza particolare. È abbastanza particolare perché è particolare la ricerca sulla realtà mentale umana, e la mia è ancora più particolare perché l'ho fatta in maniera assolutamente, che termine posso adoperare, eterodossa, lasciando che, abolendo ogni, possiamo dire, veste, forse no, la sostanza forse è rimasta professionale, abolendo ogni rapporto medico-paziente col contratto, abolendo tutto e lasciando le persone assolutamente libere di venire, non venire, andarsene, parlare, non parlare, fare tutto quello che assolutamente volevano fare. Non c'erano non solo obblighi, ma non ci sono state nemmeno regole. Da questa grande esperienza, che ormai dura da 35 anni, dopo che già da 15 anni facevo lo psichiatra, poi gli anni poi sono passati, eccetera, e quindi mi chiedevo che cosa ho fatto e come potevo fare a raccontare un po' il discorso dell'identificazione, il discorso della pulsione d'annullamento, il discorso della bramosia, quello del tutte queste sofisticatissime storie che stanno nella mente umana, in particolare in quella mente umana che non è stata mai presa in considerazione e che chiamano inconscio. Io ho saltato anche quello che è la psichiatria, possiamo dire classica, la psichiatria della coscienza e del comportamento, e per cui il comportamento non me ne sono mai occupato. Nelle sedute il comportamento non c'è, stanno tutti seduti, siamo buoni, e quindi c'è fuori io non sono più psichiatra, fuori io sono un libero cittadino come tutti gli altri, uguale a tutti gli altri, non c'è più. Il medico ed il paziente o ai limiti il ricercatore, lo psichiatra che fa ricerca, eccetera, è quello che si interessa a fare ricerca, anche perché magari vuole interessarsi da un punto di vista letterario, artistico, eccetera, di come funziona la mente umana, oppure perché ci vuole fare una professione, colleghi psichiatri, eccetera. E insomma, qui andavamo e poi in particolare mi sono accorto che era entrata dentro così, questo il valore, il pensiero e l'efficacia delle immagini, quella parola là, grossa e rossa, e io pensavo che è una vita che io mangio, dormo, bevo, mi sdraio su quella parola. La mia è stata tutta una rivolta, ma contro tante e tantissime cose, dalla storia della psicanalisi alla storia della psichiatria organicista, che dice che la malattia mentale è organica, è una lesione cerebrale, non vuole fare nessuna ricerca su quelli che sono i rapporti, in particolare i rapporti interumani. E quindi pensavo tutte queste cose fino ad arrivare a, sempre sulla scia, sullo stimolo di quella parola, anche convalidata dalla relazione di Vecelli, o di Walter Vecelli, che è intitolata proprio Rivolta, e parlava e citava Camus, eccetera, tutto questo mondo di letteratura degli anni 30, del secolo ormai passato, ed era arrivato proprio piacevolissimamente a piacevolissimamente rimemorare. Non è un ricordo, ovviamente, ma ormai giunto a una certa età, ho dei nipotini. E li osservo, li guardo e mi insegnano un sacco di cose. In particolare, questa cosa caratteristica, a un certo momento, verso l'anno di vita, quando cominciano a fare i primi passetti, sì, io credo che fosse un carattere un po' speciale, di rivolta, visto che il genoma si era trasmesso attraverso la figlia, per cui dicevano no, no, allora vieni qua, dammi un bacino, no. Oh, dico, interessante questa cosa del no. E poi, ancora più sofisticatamente, notavo che anche quando ancora non avevano il linguaggio verbale, facevano così. Ah, dice, dammi un bacino. No. Ah, e allora mi permettevo di interpretare che questo è il rapporto del bambino al seno. Il rapporto che da una tetta all'altra tetta, o quant'altri mai, se il neonato, i primi mesi di vita, che fa a un certo momento si stufa del latte della tetta della madre e si scansa, eccetera, e immediatamente rivolta contro tutte certe mamme che invece vogliono ingozzare il bambino e così via dicendo. E poi elaboravo come si poteva arrivare a questo discorso, che era interessantissimo in tutta l'assemblea, ieri e anche oggi, è legato alla rivolta. Una ricerca filosofica, letteraria, linguistica, su che cosa? Sulla faccenda della differenza. La differenza delle parole tra rifiuto e negazione. E vedere come la negazione sia una dimensione assolutamente distruttiva, mentre sana è il rifiuto. La negazione è un discorso di alterare la conoscenza del rapporto con la realtà, in particolare con la realtà umana. La negazione è deformare, pensare che, sognare che Marco Pannella è piccolo, alto 1,50, è mingherlino, molto magro, eccetera. E anoressico da tanti. Bravo. Questa è un'alterazione del rapporto e della conoscenza inconscia col proprio simile che porta a una falsificazione completamente alla realtà. Io dico no. Il rifiuto invece è una cosa chiara e cosciente. Vedo quello che è e dico no. È basato sul rapporto con la realtà e sulla conoscenza. Questi sono dei cardini fondamentali per poter poi fare quel lavoro che è quello che è cura, formazione, eccetera, che è portare sempre a lavorare per la conoscenza della interpretazione di quella unica voce che esiste, forse non unica, anche il comportamento, ma il comportamento non è interpretabile, che sono i sogni che ci dicono quello che succede in questo terzo di vita, considerato che si dorme, spero che tutti dormiate 7-8 ore ogni 24, in buona salute, fa un terzo di vita, qualcosa come 35 anni di vita. Né la psichiatria, né la medicina, né la filosofia e né la letteratura se n'è mai occupata. E lì invece probabilmente ci sono tutte queste radici di quello che accade nella malattia mentale. Ora, stavo pensando tutte queste cose e seguivo quello che dicevano. Io ho fatto questo, io in Basilicata ho fatto quest'altro, anche il Partito Radicale ha fatto questo, ha fatto quest'altro, e mi chiedevo cosa ho fatto. E mi tornava in mente un vecchio film di Ingmar Bergman, Il posto delle fragole. C'è un medico che è giunto a una certa età si chiede o dice il medico in primo luogo deve chiedere perdono. Ero piccolo ovviamente, è roba di ormai di 50 anni fa, e dico: come mai? Cos'è questo chiedere perdono? Perché fa gli errori? Beh, va bene, gli errori fanno parte, eccetera. Forse è che non ha fatto quello che poteva fare. Poi, siccome nel film poi lui sogna, è una delle più belle descrizioni dei sogni che fa Bergman, una carrozza, un carro funebre da dove esce una bara, si apre ed è lui, cioè sogna la sua morte. E allora dico, ma che ci sia qualche cosa di più che farsi un senso di colpa, chiedere perdono perché non ha fatto quello che si potrebbe fare. E questo in medicina, specialmente in chirurgia, cosa che ho fatto, è un problema così. Quando uno deve scegliere cosa fare. E poi si chiede, ma ho fatto quello che si poteva fare? Io ho memoria, perché frequentavo l'ospedale, il reparto chirurgico fin da studente, dai primi anni di studente, che tante volte erano crisi notevoli. Un traumatizzato di strada, eccetera, non operato. Per la diagnosi, che ormai c'era uno stravaso di sangue, eccetera, era imparabile e moriva senz'altro, come si dice comunemente, sotto i ferri. E questo ragazzo è morto. E io mi chiedo sempre, tuttora, perché non è stato fatto? Perché in ogni modo non è stato operato? Questo è sempre così. E lì nel film dicono, ma che sia che il medico deve chiedere perdono perché non è riuscito a sconfiggere la morte? Che sia questo, e forse me l'avete suggerito voi, quando avete parlato della lotta contro la pena di morte. E forse effettivamente ci sono dei momenti in cui uno penserebbe che il medico deve chiedere perdono perché non riesce. Ora, io ho abbastanza ben abbandonato questa cosa perché mi sono occupato, posso dire in breve termine, di morte psichica, cioè di malattia mentale. E anche questo è un episodio di 20 anni, 18 anni, eccetera, in cui un brillantissimo chirurgo, che era il mio maestro di chirurgia, entrò all'ospedale, c'era un ambulatorio, c'era uno sollecito che stava facendo un'iniezione endovenosa. E dice, beh, questo che cos'ha? Cos'è? Si interessa? Beh, questo è un malato di mente che fa così, eccetera. Ah! Mandatelo in manicomio. Io sono rimasto. Ah! No. Allora io, mi dispiace, dopo qualche anno vicino alla laurea, dico allora tu, ciao, io me ne vado e vado a fare lo psichiatra. Non faccio più il chirurgo, nonostante che tu mi abbia insegnato magnifiche cose. Mi hai fatto vivere un'esperienza notevoli, eccetera. E mi sono occupato di questa morte mentale. Il perché della morte mentale. Il perché viene questa malattia mentale che poi porta alla schizofrenia e alla enorme, mostruosa violenza. Credo che siamo arrivati a un punto per cui è quotidiano la brava persona che per 45 anni, 50 anni è stato un magnifico. La mattina si alza e ammazza tutta la famiglia. È brillantissimo, eccetera, americano, che fa... era uno psichiatra. E ha ammazzato 12 persone, così, tanto per sport, e fare il tiro a segno. E questo lo leggiamo tutti i santissimi giorni, specialmente in America, negli ultimi anni, è diventata una cosa, eccetera. E quindi la grande domanda, perché? E allora ho detto che bisogna capire come funziona la mente umana. E quindi mi sono immerso in queste ricerche sottilissime, eccetera, eccetera. E insomma, stavo bene, seguivo questo congresso con molta simpatia, gratissimo, a a Marco Pannella che mi aveva invitato e quindi mi aveva portato un po' fuori per portarmi a delle realtà. E improvvisamente sento il presidente che dice che qui c'è il rappresentante della resistenza italiana. E qui mi è crollato tutto. Mi è crollato tutto perché lo sguardo, e non sapevo se era un sogno, e non sapevo se era una reverie, non sapevo se era una percezione. Per un momento sembrava una memoria, un volto bianco di ragazza con la bocca rossa. E pensavo che fosse l'immagine di Neda, quella ragazza uccisa in Iran 4-6 mesi fa. Poi invece ho guardato, ho visto lì una ragazza, mi pare che adesso non c'è più, che specialmente la missione poi andata sullo schermo, aveva un volto bianco, come quello che avevo immaginato. A quel punto la contentezza, la gioia, eccetera, è scomparsa completamente. E poi, e quindi dico, vabbè, io non ho fatto niente di queste cose. Quello che fanno particolarmente le donne in Iran. Sembra, sempre le notizie sono quelle che sono, che questa rivolta, questa resistenza, questa opposizione a questa dittatura nazista, direi, più che fascista, che è venuta fuori in Iran, siano studenti e donne. No. Quando fu il 68, io, ma già devo confessare, insomma, non avevo più 20 anni, ero già uno psichiatra qualificato, stavo facendo queste ricerche e continuò e il pensiero che avevo, qui bisogna capire qualcosa prima della prassi, diciamo pure politica, bisogna capire come funziona questa realtà umana. Però anche tenendo una certa distanza dal 68, poi ho visto che quella era piena di negazioni. Questa rivolta generale, questa rivolta iconoclasta, mentre qui, ecco, mi veniva anche in mente questa storia del Partito Radicale, delle cose, di questa resistenza laico-socialista e così dicendo. E lì ci vedevo bene, forse nella non violenza, anche sulla storia della non violenza bisognerà anche discutere, eccetera, eccetera, ma in ogni modo ci vedevo il rifiuto quotidiano, non la rivoluzione. C'era un pensiero che la parola rivoluzione, in fondo, l'hanno messa sul giro della terra intorno al sole. E fare queste grandi cose significa poi fare la rivoluzione, cioè tornare sempre allo stesso punto. Gira, ma siamo sempre... E questo nella storia è successo spesso. Dalla rivoluzione francese, anche se i nobili sono stati sostituiti dai borghesi, sia nella rivoluzione comunista. Grande rivoluzione, cambiamo tutto il mondo e invece non è stato cambiato, o per quel che è stato cambiato hanno pagato cara questa cosa di... Sì, questa è una meta da perseguire, cioè la parola uguaglianza, ma scusatemi la parola, stupidissimamente l'hanno messa, per cui era realizzata nella misura in cui... un miliardo di cinesi avevano la giacchetta grigia, così hanno realizzato l'uguaglianza. Così è accaduto dal 49 in poi. E allora come si realizza quest'uguaglianza? Ecco che ci veniamo, eccetera. Si realizza, sì, la lotta politica, mi guardo bene, anzi, ho un enorme complesso di inferiorità nella misura in cui mi chiedo: ma forse non ho fatto quello che avrei potuto fare, cioè una prassi politica un po' più vivace, se vogliamo dire, dedicare maggior tempo, oltre alla cura e allo studio scientifico di questa cosa, della psichiatria, della malattia mentale, del perché la morte della mente. Però, insomma, no, ho sentito la Bonino quando ha fatto questa visione di come nelle nazioni, nelle società più progredite, in fondo, al di là dei diritti civili, la condizione della donna è la stessa che in Iran. Viene, ecco i termini che io sono riuscito a scoprire, oltre il fatto di essere aggredita fisicamente dal più o meno maniaco sessuale o del criminale, il pazzo, il delinquente, ma di essere negata in continuazione. Passare dall'aggressione fisica a questa elegantissima non esistenza. O più ancora, non identità. E allora che è sta storia che in particolare parte dalla rivoluzione francese della democrazia e della laicità che dà identità sociale e legale alle donne, per cui tutti i cittadini sarebbero uguali davanti alla legge, e poi umanamente non sono uguali. E allora ho camminato sulla strada di cercare qual è la vera uguaglianza. E la vera uguaglianza, adesso cercherò di farla il più breve possibile, anche se è un discorso fondamentale, importante, però è complicato da raccontare. Perché è una delle resistenze maggiori, anche nelle discussioni più affettuose, più interessate, più appassionate, lì è come se si fermasse qualche cosa. E Marco Vanella ha avuto la genialità, ormai da tempo, un anno e mezzo, non so, manifestamente da un anno, di interessarsi a quella che in Quaderni Radicali Rippa ha messo teoria della realtà umana. Ora, quali siano i pensieri di Marco, ve li fate dire da lui. Però io credo che questa intuizione, lo prendo come regalo, che nella realtà politica, nei problemi tragici che ci sono, i grandi problemi moderni che si sviluppano e sono irrefrenabili, che lo sento dire, e ci sono delle situazioni che si cercano delle soluzioni di fermare, sono i due grandi problemi degli immigrati e dei carcerati. E allora lì, sì, certo, si possono fare 100 cose, si possono fare 100 scioperi della fame, ma è difficile vincere una cosa se non c'è sotto un principio fondamentale, il principio dell'uguaglianza. La lotta contro il razzismo, o addirittura il nazismo, che adesso si esercita contro gli immigrati in maniera particolare, per non dire i rom, gli zingari, insomma tutta questa cosa che non sia il cittadino per bene con giacca e cravatta, sì, è encomiabile, eroica. Però le ragioni, posso dire scientifiche, si possono trovare soltanto nella teoria della realtà umana. La teoria dell'uguaglianza è scoprire che tutti gli esseri umani nascono uguali. E adesso, contento, e do anche la ragione, perché il comunismo che mi ha sempre appassionato da piccolo, ma perché? Perché c'era la guerra, potevo fare Sandokan, potevo fare il corsaro nero, potevo fare il corsaro rosso, e quindi il comunismo durante la guerra era un fascino, però mi sono tenuto sempre abbastanza lontano, e dopo, l'ho tenuto sempre più lontano perché dopo si è saputo perché questa uguaglianza costava troppo cara, perché significava annullamento dell'identità umana. Allora no. E allora ecco l'orientamento, ecco perché sono corso a richiamo, non dico come figliol prodigo, ma insomma qualcosa del genere, a richiamo del padre. Vabbè, siamo coetanei, ma insomma. Quando dice vieni in quest'area, vieni a raccontarci un po', in particolare quello che interessa è questa teoria della nascita, questa faccenda, perché sì, certo, tutti uguali. Una teoria della nascita però che non deve essere l'oppressione, perché la violenza è solo il sadismo del capitalista sull'operaio con lo sfruttamento di forza lavoro. E allora la dinamica si articola come la nascita è assolutamente uguale. Dobbiamo riuscire, ecco che vado un po' nel profondo, e non so se è lecito, ad usare l'istinto di morte per fare l'identità umana reale. Cioè, si potrebbe dire ignorare, non vedere, accecarsi, come fece Tiresia, l'indovino greco, sulla realtà fisica del neonato. Per cui io arrivo a dire che bisogna ignorare che nasce un maschietto e la femminuccia. La verità è al di là della percezione della realtà fisica, di un fatto di coscienza e di ragione, che è nato un essere umano, che sia maschio o femmina, deve essere completamente ignorato. Non deve essere più ignorato, più grandi, ecco. L'evoluzione della differenza avviene dopo su questa base, su questa base di uguaglianza. Dico, chiedo a Marco, chiedo a tutti voi, chiedo cosa. Quanto, certo, raccontare questo a Bossi non serve. No, no, non proprio non serve, credo che non serva nemmeno a Tremonti, nemmeno a Berlusconi, neppure alla Chiesa Cattolica. Non capiscono, non capiranno mai. Quindi ci vuole un'opposizione quotidiana, continua, di rifiuto di queste cose, rispettando, come dicono loro, la libertà di ciascuno di pensarla come crede, come vuole. Importante, ecco, e qui fate tutto voi, io ce lo so, solo da imparare. Quindi la lotta contro quello che chiamano fondamentalismo religioso, quello che chiamano... istituzione che vuole intervenire in casa, per cui bisogna mettere il crocifisso anche in camera da letto, pregare prima e dopo, quella certa cosa che spero che ancora voi, tutti voi facciate spesso, no, questo è una lotta e questo è appunto il rifiuto. Marco, mi permetti una piccola obiezione? Una piccola obiezione. Perché hai accettato gruppo... Una grande, spero, una grande, non una piccola. Perché hai accettato che quel gruppo di ragazzi, di facinorosi, siano venuti al Partito Radicale a piantare il crocifisso sulla cosa? Tu lo sai che cosa ho scritto, che cosa mi ha appassionato, cosa mi ha affascinato? Questo ritorno del ricordo di Ipazia. I cristiani l'hanno fatta a pezzi. Quella non è libertà di espressione, quella è imposizione fascista. Se lo vuoi, quella è negazione, non è rifiuto. Il rifiuto viene, si potrebbe dire, dal basso. Adesso quella è imposizione per dominare, per impedirti di pensarla come credi. Chiaro? E se tu, come fa Ipazia, vuole pensarla diversamente e non si converte al cristianesimo, viene fatta a pezzi con una conchiglia affilata, certo, da viva, dopo che gli hanno cavato gli occhi. Questo è l'amore cristiano, fraterno, 415 dopo Cristo. Poi, vabbè, devo ringraziare certamente Bonino perché poi ha detto e ha considerato tutte queste possibilità che c'ha in verità la donna, e in particolare se c'è il rapporto da donna, il rapporto uomo-donna, che noi, lei dice, ci sono molti ometti piccoli. Io non voglio fare autocritica, anche se sarebbe bene, ma effettivamente se non si determini questa negazione continua per cui l'identità è della donna, va a contrasto degli uomini. E credo che sia un fenomeno sociale che va visto meglio lei che io, racchiuso in questo studio professionale a fare le sofisticherie dell'interpretazione dei sogni, ma che l'identità maschile sia in crisi. E l'ha detto lei, sia in crisi di fronte all'emancipazione, liberazione, ma io direi di più, identità della donna. Si è potuto fare qualche osservazione psicologica, eccetera, eccetera. L'uomo, questa certa qual figura di maschio della specie umana, non ha tanto paura della libertà più o meno sessuale della donna, della carriera politica, eccetera. C'ho una ricerca da fare, e se i colleghi maschi me la confessano, hanno il terrore, si disgregano di fronte all'intelligenza della donna. Grazie, professore.